Ok, si Maghreb, mon pote. Ok, Palermo City 122K, Bilal, crimi criminal, NO2 qua, ok? Ehi fra, non ci sono più burattini da me. Ehi fra, non ci sono più burattini da te. Ehi fra, si strappano i fili e si scappa perché nessuno mai sentirsi dire ciò che deve fare. Ehi fra, non ci sono più burattini da me. Ehi fra, non ci sono più burattini da te. Ehi fra, si strappano i fili e si scappa perché nessuno mai sentirsi dire ciò che deve fare. Siamo burattini in mezzo alla corruzione, persone in agitazione che per la disattenzione cadono in depressione. Yes. Fingendosi protagonisti di una situazione instabile ad ogni devastazione. NO2 e Bilal vi somministrano una disfunzione che vi rende incapaci contro rapaci fidati che pippano cash parando il culo solativi ricchi sfondati. Parlo di soliti fake che pompano il proprio space caricando pezzi new wave, new age. Zero sound, chiedo mayday, poco style sul tuo display, zero replay. Fake, segniamo la sopravvivenza. Skin e head check contro la vostra convenienza. 222 Maghreb spinge adiacenza, trasformando il vostro stile in decadenza. Ehi fra, non ci sono più burattini da me. Ehi fra, non ci sono più burattini da te. Ehi fra, si strappano i fili e si scappa perché nessuno mai sentirsi dire ciò che deve fare. Ehi fra, non ci sono più burattini da me. Ehi fra, non ci sono più burattini da te. Ehi fra, si strappano i fili e si scappa perché nessuno mai sentirsi dire ciò che deve fare. Burattino senza fili, perché se li avessi fili non potrei fottere stili o muovere tanti chili. Burattino kamikaze, Air Max, Adidas. Faccio il mai a poco prezzo come Frank Lucas. Gang bang, tunisino in business. La mia gente si intriba, shiba pipa come un burattino che non si clipa. La fissa per la risa, i pugni rotti in guerra. I miei fratelli contro i manganelli con la faccia a terra. Vaffanculo Carcadan, dammi soldi là quel can. Il tuo giro d'affari, la Ferrari e i tuoi Ray-Ban. Mai stato manipolato, mai parlato, interrogato. Nel guaio col culo da un avvocato che fa il burattinaio, il burattinaio. Burattino tunisino taglia i fili col coltellino e le sue gesta escono tutte dalla sua testa. Parla colpi di bottiglia in faccia, sembra strano. Tunisino resta una minaccia allo Stato italiano. Ehi fra, non ci sono più burattini da me. Ehi fra, non ci sono più burattini da te. Ehi fra, si strappano i fili e si scappa perché nessuno mai sentirsi dire ciò che deve fare. Ehi fra, non ci sono più burattini da me. Ehi fra, non ci sono più burattini da te. Ehi fra, si strappano i fili e si scappa perché nessuno va a sentirsi dire ciò che deve fare.